Never house music in the world. House music, the music of the future. Only with the angels of love. Only with the fish. This is your night tonight. Be yourself tonight. Just don't be your face tonight. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I catch it coming back my way, I'm gonna serve it to you. And that ain't what you want to hear, but that's what I'll do. And the feeling coming from my bones says angels of love. In the land of days, on the theory of the festival. Out festival with the beast Ali and Salam, the best DJ duo of the world, Yoshito Sinedo. Now use your brain, open your heart with angels of love. Your musical paradise. Your musical paradise. No use your brain. I'm gonna open your heart. Far from this opera forevermore. I'm gonna work the straw. Make the sweat drip out of every pore. Condizione di house music, live concert, only for you. Smile, il sorriso è dell'angelo. Tutta l'estate, angels of love smile. Il sorriso è dell'angelo. Sorridi, sei con angels of love. Con angels of love. Angels of love. Angels of love. No use your brain. Open your eyes. Are you listening to angels of love? Your musical paradise. Wait, dip, Sean. dal titolo Toronto numero 35. No, scusate, 25, I'm sorry. Con la Global Underground Toronto 25. Toronto 25. Toronto 25. Wait, Global Underground. Wait, deep this. Washington, D.C. Tonight with Global Underground, Toronto. Yeah. go, go! Go, go, go! Go, beat, go! Go, beat, go! Go, beat, go! Go, go, go! Go, go, go! Go! Beat, go! If you are red, blue, white, black, it is a love. Break out with the music, all together in one, angels of love. Wait, deep peace. A special guest star for Finlandia Day. 12 hours of live show. The Angels of Love for Dance Summer 2003. Smile, so ready. Grazie a Dio di non aver fatto piovere, grazie di non aver fatto piovere. Thank you, grazie all'universo. Questa notte avevo grande paura della pioggia, ma l'universo ci ha regalato Disneylandia Day, 12 ore di House Festival, Quaid, Satoshi Tomi, Hector Romero, Deep Dish e con Gigi Bros, Angels of Low Posse. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento è il 14 di giugno con Roger Sanchez. Sempre di Thailandia. Are you ready? Cioè, non sento la vostra energia. From Washington to Napoli, DJ Deep Dish, Angel is the party. Go, go, go! Go, go, go! Jersey, where you from? Napoli! Say it! Napoli! Bring it! Napoli! Napoli! Vorrei un grande applauso, uno dei più grandi, per Deep Dish! Vorrei le mani forte, più forte! Cha-cha! Chica-chica-chica-cha-cha! Ci vediamo sabato 14 giugno con Roger Sanchez. Cioè, vi ringraziamo della vostra presenza. Ringrazio Dio per non avermi fatto piovere. Vi amo. Ringrazio Deep Dish, Satoshi Tomi, Hector Romero, JG Bros, gli Angels of Love Dancer, tutto lo staff che ha reso possibile Ditelandia Day con 12 ore di House Festival. Mi raccomando, all'uscita mettete le cinture di sicurezza, fate guidare chi può guidare, no? E ci vediamo sabato 14 giugno con Roger Sanchez. Facciamo un applauso al signor Di Tella che ci fa mettere l'ultimo disco, dai, per favore, ragazzi. Ragazzi, più forte, perché Di Tella non ce la fa mettere. Smile, smile, la nuova Night of the Angels of Love, tutta l'estate, mi raccomando, segui il sorriso. Salvio, segui il sorriso. Per favore, possiamo tutti sorridere? Sorridiamo! Represent, represent. Napoli forever. Represent, represent where you from. Ci vediamo sabato 14. Grazie. Onorati della vostra presenza. Ci vediamo sabato 14 giugno. Thank you so much, people.